Salve a tutti, questo è il primo incontro della Scuola di Buona Politica che si svolge qui presso la Fondazione Basso da ben 12 anni. Questo andrà avanti, come sapete, il programma ogni mese e fino all'ultimo incontro che sarà a giugno. Credo che abbiate o abbiate visto tutto il programma, per cui non lo riassumo. La Scuola di Buona Politica da qualche anno ha deciso di incentrare la propria attenzione, il proprio interesse sui classici, su una lettura dei classici. Quest'anno la lettura sarà dedicata ai classici della prima metà del Novecento, in particolare oggi a uno dei più grandi classici del Novecento che è Max Weber. Dico soltanto rispetto alla Scuola di Buona Politica che verranno pubblicati a breve anche gli atti degli anni, se non sbaglio, degli ultimi 2 anni precedenti, quindi avremo a disposizione anche le lezioni pubblicate e introdotte, quindi poi quando appena usciranno, sicuramente entro giugno ve ne daremo notizia. Bene. Allora, l'incontro di oggi, come dicevo, è dedicato al grande classico Max Weber. Come è stato messo in luce, anche io dirò solo 2 parole di introduzione e poi passerò immediatamente la parola ai nostri relatori, ossia Giacomo Marramao e Massimo Paci, che prima, scusate, introduco brevemente. Professor Marramao è professore emerito di filosofia politica all'Università di Roma III, è autore di moltissime opere di grande rilievo, filosofiche e politiche, è sempre stato attento nei suoi volumi all'analisi weberiana, anzi ha avuto più volte un confronto con il pensiero di Max Weber. Penso a uno dei suoi libri più attenti a questo, L'ordine disincantato. Massimo Paci è professore emerito di sociologia economica all'Università La Sapienza di Roma, oltre che essere stato uno dei presidenti dell'INPS. E tra i massimi esperti italiani e internazionali di Stato sociale, di welfare state. Tra le sue ultime opere ricordo Passaggi di stagione del 2015. Bene, come stavo dicendo rispetto a Weber, l'anno scorso già una delle lezioni si era dedicata allo stesso a questo autore, mettendo in particolare quella di Dimitri D'Andrea, mettendo l'accento sull'importanza dell'analisi weberiana della contemporaneità. Attenta all'analisi weberiana tanto al versante dei processi oggettivi che a quello delle trasformazioni della soggettività. Ora, le interpretazioni dell'opera di Weber sono spesso molto divergenti tra di loro. Un fiume di letteratura nega che vi sia in Weber alcuna proposta normativa, tantomeno a proposito della politica. Per contro, c'è chi invece lo interpreta come un realista politico sulla linea Hobbes-Machiavelli. L'opera sulla quale oggi rifletteremo è un'opera, appunto, come dirà il professor Marramao, è una non opera, un'opera frammentaria, uscita Economia e Società soltanto postuma nel 1922. Ed è un'opera molto importante per tentare una ricognizione della metodologia e del pensiero weberiano. L'opera di Weber cerca di evitare tanto l'assimilazione, ha cercato di evitare positivistica delle scienze sociali alle scienze naturali, quanto la caratterizzazione delle scienze dello spirito nei termini psicologici della comprensione delle esperienze vissute. Nei saggi sul metodo delle scienze storico-sociali, Weber rivendica la specificità della conoscenza dei fenomeni culturali e al tempo stesso intende garantire l'oggettività dei risultati cui tali ricerche pervengono. La condizione preliminare dell'oggettività di queste scienze è posta da Weber nel carattere avvalutativo, che risulta dalla netta demarcazione tra accertamento dei fatti empirici, dominio della scienza, e la formulazione dei giudizi di valore, la cui valutazione, come è noto, è per Weber questione di fede. In questo senso, il costrutto mentale che organizza la conoscenza storica, definito da Weber tipo ideale, opera una riduzione della complessità empirica al fine di rendere intellegibile il fenomeno storico in questione. concetti come cristianesimo, feudalesimo, capitalismo e via dicendo sono il risultato non a caso di questa operazione logica. Sul piano storico, l'affermazione della razionalità rispetto allo scopo ha determinato la formazione e lo sviluppo del capitalismo. La progressiva applicazione del calcolo razionale, che un punto classico di Weber, che nell'amministrazione burocratica si dispiega compiutamente, ha prodotto quella che Weber chiama la razionalizzazione o il disincanto del mondo. Questo disincanto comporta la perdita di legittimità di ogni pretesa alla validità incondizionata dei valori, lo scacco di ogni filosofia della storia. La più celebre operazione concettuale weberiana è, come è noto, quella la riconduzione che lui fa all'etica intramondana della religione protestante quale essenza del capitalismo. Mi riferisco all'opera forse più conosciuta, cioè Etica protestante e lo spirito del capitalismo del 1904-5. Concluderei dicendo che la posizione di Weber rappresenta un serio tentativo di tenere insieme due ordini di ragionamento. Da una parte una teoria normativa molto sofistica e dall'altra un'analisi realistica, sempre più però confinata su un piano di descrizione, alla quale spesso si fa fatica a proporre progetti di emancipazione del mondo. Ora accenno soltanto, forse ne parlerà Giacomo Marramao, che in tutta la sua riflessione c'è un carattere per certi aspetti antagonistico rispetto all'interpretazione del materialismo storico e di Marx. Molto è distinta è l'analisi di Weber rispetto alla centralità del ceto, della professione, rispetto invece all'analisi marxiana di classe. Detto questo, passo immediatamente la parola al professor Giacomo Marramao, che ringrazio molto della sua lettura. La professoressa Chiara Giorgi, il mio contributo non tratterà in maniera analitica, circostanziata, gli aspetti socio-economici di Max Weber. Si li affronterà, ma soltanto di scorcio, perché in questo ambito il collega Massimo Paci è un maestro. E cercherò di evidenziare soprattutto gli aspetti di Weber che hanno a che fare con due centri gravitazionali della sua opera, che sono presenti in questa non opera che è Economia e Società, è un complesso di frammenti che sono stati montati in maniera anche abbastanza, come dire, abbastanza ragionevole da Johannes Winckelmann, il suo allievo, e dalla vedova, da Marianne Weber, e poi pubblicati nel 1922, ma che sono appunti sparsi che Max Weber aveva lasciato. Ed è abbastanza ironico che la gran parte della sociologia del Novecento si è formata su un'opera che non è un'opera di Max Weber, ma sono una serie di appunti. E tuttavia molto importante all'interno di Economia e Società la sezione dedicata al potere, però occorre anche tenere conto di un'altra cosa, perché altrimenti non capiamo una serie di dubbi, di problematiche che rimangono aperte alla fine. E appunto Weber non ha fatto in tempo a sviluppare la sua analisi dello Stato contemporaneo, a lui contemporaneo. L'ha fatto in parte nel libro Parlamento e Governo e non è riuscito a portare avanti, anche perché muore abbastanza giovane, come voi sapete, muore nel 1920, era nato nel 1864, una vita come dire, attraversata da conflitti non soltanto ideali e politici, ma conflitti interiori, difficoltà interiori, una malattia psichica molto seria che lo costringeva periodicamente all'interruzione dell'attività e su cui lui aveva cercato di lavorare in maniera estremamente intensiva. Questo fa di Weber non soltanto un grande intellettuale, uno dei più grandi dell'Europa a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Probabilmente il più grande sociologo che sia mai esistito, e sicuramente comunque un intellettuale totale, anche se lui naturalmente rifiutava l'idea di totalità, e vedremo poi su questo punto quali sono le conseguenze. Aveva studiato non soltanto l'economia, aveva studiato la storia, per alcuni aspetti anticipa la storia sociale e le nuove tendenze della storia economica, aveva studiato diritto, era un economista, uno storico, un giurista. Molto importanti le parti riguardanti la sociologia del diritto all'interno degli appunti raccolti in Economia e Società. Studia Heidelberg, a Berlino, a Göttingen, cosa in genere poco sottolineata. Scrive una tesi di dottorato dedicata alle società commerciali, nelle città medievali italiane, dove lui scorge l'avvio di una formazione storica che lui, insieme a Werner Sombart, chiamano capitalismo. Anche questo è un'altra cosa che è un mio pallino. Capitalismo è un sostantivo che non compare in Marx, che viene sdoganato scientificamente da Werner Sombart nel 1902 in Der moderne Kapitalismus, sul capitalismo moderno, e poi viene ripreso naturalmente da Weber nel famoso saggio 1904-1905, no, sull'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Perché capitalismo è in Marx non un sostantivo, è declinato sempre come aggettivo, compare nel dibattito socialista dopo la morte di Marx, attorno a Louis Blanc, viene adoperato da Engels soltanto in una lettera successiva alla morte di Marx. In nessuno degli scritti di Marx compare mai il capitalismo come sostantivo. Questo è un punto molto importante. Il capitalismo diventa oggetto della scienza sociale grazie a Sombart e poi a Weber. Sombart e Weber nel 1902, lo stesso anno in cui esce il capitalismo moderno di Sombart, diventano direttori di una grandissima rivista che ha giocato un ruolo enorme nel Novecento, l'Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, cioè l'archivio di scienza sociale e politica sociale, di cui la biblioteca dispone la collezione completa per chiunque un giorno avesse voglia di approfondire queste tematiche. Nel 1904 Weber fa una cosa che pochi avevano fatto. Fa un viaggio negli Stati Uniti e cerca di capire che cosa accadeva all'interno degli Stati Uniti. Tenete conto che lui era figlio di due protestanti, cioè padre protestante luterano, la madre protestante calvinista. E nella sua analisi del ruolo del protestantesimo privilegerà in maniera nettissima il calvinismo rispetto al luteranesimo. E quando va in America scopre la differenza determinata dal protestantesimo delle sette rispetto al protestantesimo di segno luterano. Ha giocato un ruolo importante anche negli ultimissimi anni della sua vita. Pochi sanno che lui ha contribuito in maniera rilevante alla stesura della Costituzione della Repubblica di Weimar. e quindi ha giocato un ruolo non soltanto da giurista teorico, ma da giurista militante, badate bene. Ciò detto, questa era soltanto una brevissima premessa. Io dico in genere ai miei allievi, quando introduco Weber, che la sociologia contemporanea nasce da due grandi, che però si collocano agli antipodi. Uno è Émile Durkheim, in Francia, e l'altro è Max Weber. Due autori che hanno giocato un'influenza enorme a livello mondiale. Lo stesso Durkheim ha giocato un'influenza enorme anche nell'ambito del pensiero sociale anglosassone. Penso a una monografia abbastanza significativa del collega amico Steven Lux di vari anni fa, dedicata proprio a Durkheim. Ebbene, Durkheim parte da una premessa che è esattamente all'opposto di quella di Weber. La premessa di Durkheim è la seguente: oggetto della sociologia è un fatto sociale totale, cioè oggetto della sociologia è un complesso comunitario, una comunità umana che Durkheim comincia ad analizzare a partire addirittura dal preantico, cioè dalla fase precedente al mondo classico, al mondo antico, e quindi delle comunità, come dire, caratterizzate in senso magico-religioso, dove la ritualità gioca un ruolo fondamentale. Ebbene, le società sono determinate non da fattori individuali, ma da fattori collettivi. Prima viene la comunità, gli individui sono modellati dalla comunità medesima. E questa comunità non ha un'origine contrattuale, ha un'origine, come dire, valoriale, religiosa, profonda. Stiamo attenti, perché su questo punto il ruolo profondo della religione ai fini della determinazione del comportamento degli individui vi è un punto di intersezione tra Durkheim e Weber. Ma per Durkheim tutto è modellato all'interno di uno strato profondo di condivisione di valori precontrattuale. Assolutamente precontrattuale. Poi ci sono anche i contratti, ma i contratti, diceva Durkheim, non possono mai funzionare se non affondano le loro radici in una condivisione appunto profonda di valori, di abitudini, di costumi, di comportamenti, eccetera. Weber, il contrario, rompe con una visione di tipo olistico della società. Oggetto della sociologia non è l'essere in comune, lo stare insieme. Oggetto della sociologia è l'agire, l'azione. Questo è un tema che parte da Weber, arriva poi a Parsons, che negli anni 30, nel decennio di maggiore sfortuna dell'opera weberiana in Europa, salvo Raymond Aron per un verso e Talcott Parsons a Harvard negli Stati Uniti, l'opera di Weber non è stata mai più ripresa. Dopodiché Habermas, Luhmann, tutta una tradizione che segue Weber su questo punto, sia pure con tantissime differentissime declinazioni. Cioè il punto di partenza della scienza sociale è l'agire. E Weber dice: l'agire va caratterizzato. Che vuol dire va caratterizzato? Occorre distinguere una serie di tipi dell'agire, tipologie dell'agire. Quando dico caratterizzato non vuol dire che c'è un'essenza metafisica, filosofica dell'agire. L'agire è sempre uno, ma si caratterizza in diversi modi, che tuttavia stanno insieme nell'operare concreto di ciascuno di noi. E come si possono caratterizzare i diversi, i famosi tipi ideali dell'agire? E lui ne distingue quattro. I primi due sono quelli fondamentali. agire razionale rispetto allo scopo. Cioè io agisco, quello che Habermas poi chiamerà l'agire strumentale, io agisco in vista di uno scopo. Mi prefiggo un obiettivo, scelgo i mezzi per raggiungerlo. Stop. Allora l'agire si valuta in base all'efficacia del perseguimento del goal, dell'obiettivo, come dicono gli americani, no? Questo che poi è l'agire proprio, lo vedremo, della razionalità formale. Razionalità formale che si afferma nel capitalismo, una razionalità che, come dire, stilizza e isola tendenzialmente questo momento che Weber chiama la Zweckrationalität, la razionalità di scopo, la razionalità funzionale all'obiettivo. Poi abbiamo la razionalità rispetto al valore. È l'agire che è condizionato da una idea forza, da una idea guida, da un principio etico, da un ideale. Esatto, anche da una passione, anche da una passione. Poi abbiamo la razionalità tradizionale, l'agire tradizionale, che è un agire, come dire, legato all'abitudine, ai costumi. E poi abbiamo un agire affettivo. Un agire affettivo che è determinato dai legami, dalle passioni, dalle emozioni e via dicendo. Per altro verso, la stessa morale per Weber è una dimensione che si divide in due grandi tronconi, in due tipi ideali, se volete, di etica. L'etica della responsabilità, che vuol dire tecnicamente è l'agire, un agire morale che tenga conto delle conseguenze dell'azione, delle conseguenze. Agire responsabile è un agire non assolutistico, relativo a, che pondera le conseguenze. Cioè contrario all'etica kantiana assoluta, fiat justitia pereat mundus, no? Dove io dico, vabbè, fa quel che devi, accada quel che può. No, l'etica della responsabilità, che poi ha avuto vari sviluppi nel corso del pensiero del Novecento, ma ancora oggi, è una etica che tiene conto, che pondera in partenza le possibili conseguenze dell'azione. Poi abbiamo l'etica della convinzione. L'etica della convinzione significa l'etica della identificazione con un principio ritenuto non negoziabile. Usiamo questa espressione che non è di Weber, ma di un principio etico ritenuto non negoziabile. Come dicevo prima, tutte queste distinzioni fanno parte di una stilizzazione topologica, dal momento che nella realtà questi aspetti sono, sia pure in misure e forme variabili, intrecciati nel comportamento concreto degli individui. All'interno del discorso weberiano vi sono tuttavia due approcci che formano, da un certo punto di vista, anche un campo di tensione fecondo ma molto problematico, un campo di tensione fecondo ma anche molto problematico, che rimane, che lascia il modello weberiano aperto sino all'ultimo, sino alla fine. È il campo di tensione fra un approccio comparativistico è un approccio di tipo storico-evolutivo. Vi è in Weber qualcosa di simile a una idea, se volete, di storia universale, anche se questa storia universale poi si differenzia in una serie di ambiti, ma in particolare vi è la ricostruzione di una traiettoria che in Weber riceve una definizione molto precisa e occidentale. Razionalismus, guardate bene, razionalismo occidentale, però usa non abendländische razionalismus, che vuol dire occidente, in tedesco è Abendland, no? È la, sapete, famosa opera di Spengler, Il tramonto dell'Occidente, no? È Der Untergang des Abendlandes, no? Quindi la, è il tramonto dell'Abendland, Occidente come terra della sera o del tramonto. Lui rimarca la, come dire, una posizione diversa rispetto a quella dei teorici della decadenza. E lui dice: no, io qui non mi riferisco al razionalismo della terra della sera o del tramonto, ma mi riferisco al occidentale razionalismo. Usa un termine che abbastanza raro in qualche modo, razionalismo occidentale. E lui dice, in sostanza, non è possibile una filosofia della storia intesa come un processo unico, evolutivo, cumulativo. Non è possibile una teoria della storia intesa come successione di stadi, come la pensava Hegel, come la pensava Marx. Non è possibile. E tuttavia è possibile ricostruire a posteriori una traiettoria di quella cosa che io chiamo razionalismo occidentale, a posteriori, ex post. Non esiste una legge di movimento. Non esiste una meccanica della storia, una logica della storia. Vi è tuttavia la possibilità di ricostruire alcune tracce. Guardate bene la modernità di Weber in questo, no? Alcune tracce, cioè, come dire, una sorta di esame istologico di quella cosa che era il razionalismo occidentale, che poi culmina nel capitalismo moderno. Capitalismo moderno. Che è segnato, come vedremo, da un processo di razionalizzazione. Progressivo processo di razionalizzazione. Ebbene, il razionalismo occidentale ha un DNA per Weber, già un codice originario determinato da tre componenti essenziali. E questo è molto bello e molto importante. Tre componenti essenziali che Weber riconduce a tre città simbolo dell'Occidente: Atene, Gerusalemme e Roma. Roma, raro nell'ambito della cultura tedesca, che in quegli stessi anni parlava di rapporto medianico quasi tra la cultura tedesca e quella greca classica. Questa è appunto il diritto, appunto, esatto, appunto lì invece appunto l'aggancio avviene proprio attraverso la, come vedremo, attraverso il diritto, cioè. Dunque, Atene è la nascita della filosofia, o meglio, della filosofia scienza, che introduce il criterio di una analisi razionale degli eventi naturali e degli eventi umani. eventi naturali, la fisica, eventi umani, la politica. Quindi Atene è in qualche modo un passaggio dal mito alla scienza, dal mito al sapere razionale. Gerusalemme, l'idea di storia. La storia acquista un significato diverso da quello che aveva in Grecia il termine histor, historein, che era il testimone, era come un giornalista che faceva un servizio in servizio in diretta su una guerra, eccetera, come faceva Tucidide, Erodoto, come è avvenuto fino a Polibio, all'inizio della ascesa del potere romano nel Mediterraneo. E la storia è con l'ebraismo, la storia diventa non una sorta di tavola comparativa degli eventi, dei pragmata, come in Grecia, ma diventa invece una sorta di processo orientato irreversibilmente dal passato al futuro, dalla creazione del mondo fino all'apocalisse finale, da un inizio a una fine, in cui nulla si ripete, ogni cosa che avviene è nuova. Solo una volta si attraversa il Mar Rosso. Una volta è accaduto, non accadrà mai più. Stop. Questa è un po' l'idea della storia come processo orientato dal passato verso il futuro. E la storia come processo che abbraccia l'intero viaggio dell'umanità. E Roma, infine, terza componente di questo DNA dell'Occidente, del razionalismo occidentale, il diritto universale, guardate bene. La chiave con la quale Weber analizza il capitalismo è una chiave che deve molto a Marx, e lui lo riconosce. Non si dà modo di produzione capitalistico moderno se non c'è il diritto eguale, l'eguaglianza formale. La fine della schiavitù. Weber aggiunge però un'altra cosa. Intanto aggiunge la importanza delle spinte ideali, e cioè delle spinte etico-culturali, etico-religiose e culturali, nel determinare fenomeni materiali importanti nella storia. Quindi lui non dice io sostituisco come nota anche Delio Cantimori, che tra l'altro è autore di una bella definizione, un po' segnata dal tempo, ma comunque una bella definizione dell'opera di Weber della figura di Max Weber come il Marx della borghesia. Poi Mario Tronti l'ha corretta in maniera molto, molto giocosa, un po' futurista, con la battuta: Weber è semmai il Lenin della borghesia piuttosto che il Marx della borghesia, comunque sia. Con tutto l'amore, l'affetto e l'amicizia che ho per Mario Tronti, penso avesse ragione Cantimori. Lui si poneva come una lettura del processo del capitalismo da un'ottica che era diversa da quella di Marx, pur rispettando enormemente l'ottica di Marx. Cioè l'aggiunta che fa, e che è già presente, guardate bene, io sono stato un po' a riguardarmi quella benedetta tesi di dottorato sugli istituti commerciali sulla storia delle compagnie commerciali nelle città medievali italiane, dove lui dice affiora un modello di comportamento economico che è improntato al calcolo, cioè alla contabilità razionale. Le banche italiane, che sono state la grande innovazione del sistema economico dell'Europa e dunque dell'Occidente, è la divisione razionale del lavoro che affiora nelle città italiane, dice Weber. E questi due elementi consentiranno la nascita di una nuova istituzione, l'impresa moderna, in grado di applicare la scienza, la tecnica e renderle produttive. Dunque, un capitalismo razionale, diceva Weber, lontano da tutte le forme di capitalismo mercantile, finanziario e tendenzialmente schiavistico. Io quando ho riletto questa cosa ho detto: ma accidenti, sembra che stia facendo la fotografia del capitale globale oggi, che produce nuove schiavitù, che diventa in qualche modo predatorio, che diventa mercantile e predatorio. Non è l'elemento mercantile che caratterizza la grandezza del modo di produzione capitalistico borghese, ma il suo modello di razionalità. Questo è il discorso weberiano. E per capire come questo è accaduto occorre trovare una dimensione etica che in Marx è taciuta. Non è che in Marx non esiste, non è mai dichiarata fino in fondo. Cioè, l'imprenditore moderno rompe con qualunque etica di tipo edonistico, si fonda sulla rinuncia. La Entsagung, dice Weber, è un'etica della rinuncia, che è esattamente l'etica del protestantesimo ascetico. Però badate, non l'ascesi extramondana di fuga dal mondo, ma un'ascesi intramondana. Io mi sento estraneo a questo mondo, e sentendomi estraneo a questo mondo mi impegno fino alla morte per inventare qualcosa di nuovo. Se la fortuna mi arriderà cioè a questa mia opera, vuol dire che sono stato baciato dalla grazia divina, investito dalla grazia divina. Questo dice Weber, questo è il protestantesimo nella versione calvinista, cioè della mamma, non del padre, non è un caso, cioè è il protestantesimo calvinista, dove c'è la teoria della riprova attraverso il successo. Ma la condizione è impegnarsi in un'opera rinunciando al godimento personale, essendo ascetici. Guardate che macchina, vi scoprite alcune figure di grandi imprenditori, no, che ci sono stati nel corso della storia moderna. Ovviamente tutto questo significa che la struttura del DNA del razionalismo occidentale va messa in rapporto di volta in volta con l'elemento della congiuntura. Non vi è una legge che assicuri il passaggio da una tappa a un'altra tappa, ma bisogna che vi sia una congiuntura favorevole come quella che si è determinata all'inizio dell'età moderna con l'incontro tra il protestantesimo e lo spirito imprenditoriale. Vengo all'ultima parte della mia esposizione, toccando alcuni aspetti relativi alla questione del potere. Intanto una prima considerazione: ciò che caratterizza il capitalismo in questa configurazione moderna, razionale, è un costante processo di razionalizzazione. Secondo una interpretazione standard, la descrizione weberiana mette capo alla idea di un mondo sempre più amministrato e sempre più burocratizzato, famosa prognosi della gabbia d'acciaio, che dove c'è, bellissima quelle frasi finali dell'etica protestante, quando dice quello che in origine era un mantello leggero si è trasformato in una gabbia d'acciaio, quel leggero mantello che consentiva all'imprenditore, alla invenzione imprenditoriale di muoversi agilmente nel mondo, no? È diventato una gabbia d'acciaio, il mondo amministrato. E tuttavia, questa è soltanto una parte, un lato della prognosi weberiana. C'è un altro lato in cui Weber dice: nella fase della, oggi diremmo, della totale amministrazione proceduralizzazione del mondo, la razionalizzazione come riduzione della, anche della stessa democrazia a pura macchina procedurale, scoppiano nuovi conflitti che lui dei quali lui parla nelle due grandi conferenze che tiene ai soldati appena rientrati dalla guerra, dalla prima guerra mondiale, nel 1918 e nel 1919, scienza come professione, politica come professione, dove dice delle cose alte, veramente molto alte, straordinarie. Sono due conferenze straordinarie, chi non le conosce, ai giovani più presenti, che non, io consiglio di andarle a leggere, perché sono di una bellezza straordinaria, anche formative. Chiuderò questo mio intervento con una citazione da una di queste conferenze, che è veramente molto bella. E lì Weber dice, dopo lo sgretolarsi della, come dire, di questa sorta di monoteismo della razionalizzazione capitalistica, scoppia un nuovo conflitto determinato dal ritorno degli antichi dei, i valori, il politeismo dei valori. Abbiamo un conflitto tra valori che non sono punti di vista, ma punti di attacco, Angriffspunkte, non soltanto Standpunkte, punti di vista, ma Angriffspunkte, no? Cioè, i valori rappresentano una differenza insormontabile, sono destinati a collidere tra loro. Nessuna procedura scientifica razionale è in grado di appianare il conflitto di valori, e neanche delle misure di tipo procedurale. Perché? Perché utilizzo un commento del collega Jürgen Habermas, ospite più volte di questa fondazione, perché Weber qui si accorge, l'ultimo Weber, che il legame sociale è caratterizzato da tre dimensioni simboliche. Lui dice da tre simbolismi: un simbolismo cognitivo, un simbolismo valutativo e un simbolismo espressivo. Molto bella questa cosa habermasiana. Chissà, chi mi conosce sa che non sono sempre d'accordo con Habermas, però un autore di primissimo ordine che va sempre studiato e discusso, e trovo molto bella questa differenza tra il simbolismo cognitivo, valutativo ed espressivo, e che mette in discussione l'idea di validità universale del razionalismo occidentale, che Weber chiama infatti un razionalismo del dominio del mondo, Rationalismus der Weltbeherrschung, alla lettera razionalismo del dominio del mondo. Bellissima il commento di Hannah Arendt su questo punto, bellissimo. L'umanità capitalistica occidentale, europea in origine occidentale, che si è costituita all'inizio dell'età moderna, ha stabilito col mondo soltanto un rapporto di dominazione. Ma chi domina il mondo, come qualunque altra cosa e come qualunque persona, inevitabilmente lo perde. Ogni relazione di dominio riceve questa condanna, questo contrappasso: perdere la cosa che si pensa di poter dominare. È così che ha perduto il mondo. Questo era già dentro la consapevolezza di Max Weber. Non posso soffermarmi oltre sulla idea del diritto in Weber. Weber è sicuramente nella linea del positivismo giuridico, e anche la sua idea dello Stato è una idea tutto sommato hobbesiana. Non fa altro che riformulare la teoria del monopolio sovrano nella famosa espressione bellissima: ciò che caratterizza la Herrschaft, la sovranità dello Stato moderno, è il fatto di detenere il monopolio della violenza legittima. Della violenza legittima, guardate bene, che è hobbesiana, questo discorso hobbesiano. Però il diritto è in un rapporto biunivoco con l'etica, è distinto dall'etica, e tuttavia l'etica in qualche modo rappresenta sempre la base in qualche modo costruttiva e costitutiva del diritto. E ovviamente laddove in questo rapporto abbiamo il prevalere dell'elemento della formalizzazione, dell'autonomizzazione totale rispetto all'etica, e quindi rispetto anche ai piani di fondazione costituzionale del diritto, poi, no? Principi fondamentali, eccetera, no? Allora noi abbiamo il dominio della razionalità formale. Laddove invece prevale in maniera radicale l'idea etica di giustizia, abbiamo un prevalere della razionalità materiale. Guardate bene questa definizione, no? La razionalità formale è sempre più quella procedurale, giuspositivistica, staccata. Nel pieno del dibattito sulla rivoluzione di Weimar, Weber dice agli studenti una cosa molto bella. Voi dovete scegliere, disse lui: o la democrazia fondata sulla razionalità formale, dunque sulla universalità della forma giuridica, oppure dovete scegliere la legittimità fondata sulla giustizia. Ma se scegliete la legittimità fondata sulla giustizia, lui disse, l'unica soluzione è la rivoluzione dei consigli, disse lui. Beh, perché che era, aveva un acume politico notevolissimo. Acume politico notevolissimo. Perché o noi abbiamo un potere, una democrazia che è organizzata attraverso le competenze e gli specialismi, i saperi speciali, sempre il dibattito di oggi, oppure abbiamo una democrazia che è basata sulla esclusione di tutte le competenze salvo quella dell'espressione della propria volontà come appunto espressiva di bisogni, di cambiamento. non veniva in mente a Weber che forse era possibile trovare una interazione, una sintesi tra questi due momenti. Wolfgang Schluchter, nel suo libro, che è un libro che adesso ho riletto proprio nel preparare questi appunti, un vecchio libro del 79, ho visto anche un po' la temperie di quegli anni, perché poi mi riconosco molto. Un libro ormai abbastanza insoddisfacente, Die Entwicklung des Occidentalen Rationalismus, lo sviluppo del razionalismo occidentale, considerato a ragione anche forse uno degli studi critici su Weber migliori che siano mai stati scritti, però un po' mostra decisamente il segno dei tempi. Però sono d'accordo con Wolfgang Schluchter quando lui fa a un certo punto del libro questa battuta, che Weber, che il Weber molto molto netto, molto drastico, un po' sembrava Bobbio, un po' alla Bobbio, dico scegliete o la democrazia rappresentativa formale, una testa, un voto è chiuso, oppure l'inferno, oppure fate la rivoluzione, oppure fatela fino in fondo. Questo diceva lui in maniera molto netta, ma che invece appunto escludeva questo, questa sorta di possibilità. E il potere all'interno di questo sistema, il potere per Weber è due cose, cioè Weber distingue due termini, Macht, che è la potenza, e la Herrschaft, che è il potere in senso proprio, inteso come potere legittimo. In maniera che ha sorpreso molto Michel Foucault su questo punto, ma io mi sorprendo della sorpresa, vuol dire che Foucault non aveva letto attentissimamente Weber, con tutto il rispetto enorme per Foucault. E dice, beh, insomma, quando Weber dice che la potenza, la Macht, non può essere oggetto di scienza sociale perché è sociologicamente amorfa, e beh, quando lui dice sociologicamente amorfa, intende non vi è una struttura coerente, logica coerente in quella dimensione che chiamiamo la Macht. Qual è questa dimensione? I rapporti interpersonali, le relazioni d'amore, e i rapporti familiari, i rapporti nell'ambito della scienza e della conoscenza. Eppure, badate bene, nella sociologia della religione, Weber, che come ogni genio aveva intravisto tante cose, aveva detto una cosa che è molto importante, che vi sono sette sfere ordinatrici della vita. Badate bene, la sfera della parentela, la sfera familiare, la religione, l'economia, la politica, l'arte, badate bene, la sessualità e l'erotismo che mette insieme, e poi la scienza, il sapere e la scienza. Vedete com'è? Sono vari ambiti che in qualche modo regolano e non circola il potere in tutti questi ambiti? Questa è la domanda che è. E perché dice che la Macht, la potenza, il potere di fatto, non può essere oggetto di scienza sociale? Perché dice questo? E questo naturalmente, ma per la semplice ragione che per Weber il potere è qualcosa che può essere oggetto se ha una sua caratterizzazione facilmente, agevolmente, chiaramente individuabile. E cioè il potere va bene se è uno di questi tre poteri. Il potere tradizionale, si può dire il potere paternalistico, eccetera. Il potere razionale legale, quindi potere tradizionale, quello che si conforma alla tradizione, potere fondato, bellissima, termine obesiano, sulla reverenza. Sulla reverenza. Il potere razionale legale, che significa il potere fondato sulla logica dei diritti e dei doveri stabiliti erga omnes. E in terzo luogo, aspetto più complicato, potere carismatico. Weber muore nel 1920, alcuni dicono teorizza il fascismo, ma che fascismo? Per lui l'esempio di capo carismatico era Lenin. Non sapeva nulla di Mussolini, che fa la marcia su Roma nel 22 e lui muore nel 1920. Ma proprio niente. Ma lui vede che vi è una crisi di legittimazione della democrazia rappresentativa. Lo vede già allora. E dice, vede la possibilità che entri in campo il carisma. Cosa vuol dire il carisma? Il carisma, guardate bene, lui dice, non risolviamo la cosa nel conflitto tra i sostenitori del potere impersonale e i sostenitori del potere personale. Ciò che caratterizza il carisma non è soltanto l'aspetto personale, c'è anche quello, ma la attrattiva simbolica di un fattore legittimante che è legato a quella che Weber chiama la missione, una missione. La fonte di legittimità del carisma è l'appello a una missione, a una missione. È arbitrario il capo carismatico? Se diventa arbitrario viene rovesciato o finisce in rovina, o manda in rovina un paese, se è arbitrario. Altrimenti il capo carismatico, che è legato alle esperienze dei grandi profeti anche dell'antichità, esempi che anche Machiavelli adduce nel Principe, tra l'altro. E probabilmente lui è da Machiavelli che prende questo aspetto della missione, no? Appunto profetica del capo politico. Il capo carismatico, preso sul serio, ha un onere di responsabilità molto maggiore. Esatto, anche Mosè, esattamente, anche Mosè, esattamente come lo citava nel Principe lo stesso Machiavelli. Questo è lo scenario che si apre: il potere carismatico, il conflitto di valori contro il mondo avvenestrato e le difficoltà dell'eccezionalismo occidentale a fronteggiare questa situazione. E dunque, come intendere la politica all'interno di questa? Come intendere la politica? Weber sapeva benissimo che la politica, con Machiavelli, è arte del possibile. E molti dicono, Weber un autore realista, conservatore, disincantato, eccetera, eccetera. Vi leggo quello che lui scrive in Politica come professione, Politik als Beruf, la conferenza del 1919, tradotta giustamente in inglese e invece scorrettamente in italiano. Italiano politica come professione. Politics as vocation, come vocazione, che Beruf non è soltanto professione, c'è l'elemento del Ruf della chiamata, della vocazione. Vi leggo questo perché, per essere scritto da un sociologo conservatore, tra virgolette, dimostra come questo conservatore si era proiettato ben oltre molti autori progressisti. La politica consiste in un lento e tenace superamento di dure difficoltà, da compiersi con passione e discernimento al tempo stesso. È perfettamente esatto e confermato da tutta l'esperienza storica che il possibile non verrebbe mai raggiunto se nel mondo non si ritentasse sempre l'impossibile. Tutto qui. Grazie moltissimo, Giacomo, di questa bellissima lezione e analisi, e passo subito la parola al professor Paci, poi faremo la pausa e poi la seconda parte saranno invece domande e risposte dei nostri relatori. Di solito la facciamo dopo il secondo, però a due. Così l'attenzione ancora resta. Adesso il tuo discorso, un attimo avrei bisogno di riposarmi, però se loro sono così bravi ad andare avanti, punto, ma io lo dicevo così, mi prendevo l'onere di proporre l'interruzione, ma io vado avanti tranquillo, se ce la fate, anche perché io ho preso, mettetevi d'accordo, io sarò molto più terra a terra, voglio dire, ho preso un'angolazione molto più da sociologia economico-politica e quindi non toccherò i livelli notevoli, eccezionali, per i quali ringrazio moltissimo Giacomo, che ci ha trasportato a un livello di riflessione che raramente sentiamo echeggiare nelle nostre sale di conferenze. Ti faccio proprio i miei complimenti. Io però, appunto, sapendo di non poter fare altrettanto, perché per quanto conosco abbastanza bene Weber, anch'io ho fatto un libro di recente in cui dedico due capitoli a Weber, questo libro si chiama Lezioni di sociologia storica, riguarda essenzialmente il metodo. E quindi do a Weber in questo libro l'onere di aver individuato il metodo con cui studiare la società. Mi faccio ruotare attorno tanti altri autori, ma tutto il filo del libro ruota attorno all'apporto weberiano, ma non sarò qui oggi a parlare di metodo. Ho cercato di fare invece un compitino che mettesse in relazione, come diceva il leaflet, il foglio di presentazione della scuola, il processo storico di razionalizzazione di Weber con il capitalismo contemporaneo. E quindi la domanda che mi sono posto, che aleggia un po' nel discorsetto che farò adesso, è: troviamo in Weber le tracce del capitalismo contemporaneo oggi? Questo era pensato, di prendere questa tangente che è molto più diciamo colloquiale e non si confronta con i grossi problemi teorici dell'opera omnia weberiana, proprio nel senso che Weber tocca talmente tante dimensioni analitiche che giusto Giacomo è riuscito a darne un affresco relativamente sintetico. Quindi io toccherò questi punti. Anch'io partirò brevemente dal ricordarci insieme che cos'è il processo storico di razionalizzazione della civiltà occidentale. Detto in due parole, richiamerò l'etica protestante, lo spirito del capitalismo, richiamerò la sociologia delle religioni, perché questo è uno dei termini della comparazione. Dopo, secondo capitoletto, questo titolino qui nella mia traccia. Di quale capitalismo cerchiamo le tracce in Weber? E quindi non parlo più di Weber, ma sinteticamente affronto il tema del capitalismo oggi, allo stadio in cui siamo, il capitalismo globale, che comporta però alcune qualificazioni. E quindi, posti i due termini, processo di razionalizzazione weberiano e il capitalismo contemporaneo, passo nella parte importante, e che è: c'è una prognosi in Weber di questi sviluppi cui assistiamo oggi? Quindi, come vedete, mi muovo terra a terra, non faccio grandi voli pindari, ma mi sembrava che mi fosse stato dato questo compito, che non è neanche del tutto facile. E sono andato però a ritrovare questa previsione, questa prognosi weberiana del capitalismo contemporaneo, più che in economia e società, come volevano gli autori del programma di quest'anno, me la sono andata a cercare piuttosto negli scritti politici, anch'io, nel Weber politico 1918, 1916, 17 e 1920, e soprattutto nel libro Storia economica, che è pubblicato postumo nel 1923, un anno prima di Economia e Società, se non sbaglio, che è del 24, o un anno dopo, perché ha posto gravi problemi. La Storia economica di Weber non è un libro che ha scritto lui. Weber nell'inverno 19-20 insegnava, è l'ultimo anno che ha insegnato, il semestre invernale 19-20 insegnava a Monaco, e ha tenuto un corso appunto di storia economica, e ci ha lasciato le schede delle sue lezioni, non tutte peraltro purtroppo, ma abbiamo, l'editore ha trovato molti dei quaderni di appunti dei suoi studenti. E quindi, mettendo insieme le schede di Weber e i quaderni di appunti di studenti, è uscito La storia economica, che è il luogo dove Weber esplicitamente affronta, sia pure in maniera disordinata, data la natura anche del materiale con cui il libro è stato costruito, affronta il futuro prossimo, immediato del capitalismo. E c'è una bella introduzione di Carlo Trigilia a questo libro, Che ci guida proprio anche su questa, nell'ultima parte, l'introduzione, ci guida in questa direzione che io ho copiato. Quindi non ho nessun responsabilità nel bene e nel male di seguire. E quindi la terza parte, che è quella conclusiva, la risposta sarà positiva: c'è una prognosi weberiana. Quello che ho cercato di fare, essendo io un sociologo della storia, un sociologo storico, ho fatto questa operazione un po' irrispettosa, ho cercato di storicizzare Weber, cosa inaudita, e ho detto: vediamo un po', oltre a questo libro e alle cose che lui ha scritto, agli scritti politici sparsi, vediamo un po' qual era la società in cui Weber ha vissuto gli ultimi anni, perché è una società in tremendo cambiamento. Sono gli anni prebellici, gli anni di guerra, gli anni successivi alla guerra, il crollo dell'impero asburgico, dell'impero guglielmino, e il passaggio alla Repubblica di Weimar, con Weber che era stato inserito, come è stato ricordato, dentro al gruppo degli esperti che era chiamato a stendere il testo della nuova Costituzione. Quindi è un momento estremamente interessante, storicamente, socialmente interessante, che può aver influito anche sull'atteggiamento weberiano. E il tutto mi porta a concludere anche il mio pezzetto, mezz'ora parlerò, non di più, sul carisma. Alla greca dovrebbe essere l'accento sta sulla A, o mi sbaglio? L'accento greco è carisma, appunto, sulla A. Però sul carisma, insomma, perché lì veramente vedremo che È assurdo accusare Weber di cecità di fronte al nazismo che seguirà di lì a pochi anni, di non aver visto che con la sua proposta del leader carismatico apriva le porte a Hitler. Insomma, mi sono compiaciuto di sentire anche la tua opinione, che è questa. Insomma, il buon Franco Ferrarotti, che ha scritto tante cose importanti, è buona, bella anche la sua introduzione nel 1976 ai due volumoni di Weber di sociologia delle religioni, l'edizione Hutter, c'è una bella introduzione di Ferrarotti, però lì l'accusa di cecità di Weber di fronte al nazismo imminente è un po' si è lasciato un po' andare, però dice tante cose importanti, Ferrarotti lì, per esempio, che Marx ha una teoria dello sviluppo capitalistico, Weber no, e lì ha ragione Ferrarotti, insomma, perché insomma, in questo Weber viene da Dilthey e dallo storicismo tedesco. Poi passo al compitino che mi sono preparato, adesso seguito a parlare un po' a livello sul quale ci sfida giustamente Marramao. È figlio di Dilthey e dello storicismo tedesco e non di Marx. Marx ha una teoria dello sviluppo, non direi dello sviluppo a stadi, benché c'è la società precapitalistica, il capitalismo, poi si parla del capitalismo mondiale, finanziario, quindi Weber non ha una teoria dello sviluppo capitalistico perché non è congeniale alla sua impostazione. Weber, e qui apriamo il discorso sul metodo, Weber rifiuta che lo scienziato, che voi altri quando sarete scienziati della politica o della società, partiate da una teoria. È lì l'errore, la teoria preconcepita alla Durkheim o alla alla teoria funzionalista dell'americano che tu hai, Parsons, ecco anche, sono le teorie fatte scritte a tavolino. Bisogna partire dal problema, dal problema storico-sociale, dalla concretezza del dato, costruire un modello ipotetico, questo già l'ha detto Giacomo, e verificare, rivestire il processo di apporti teorici. Ma guai a partire da una teoria preconcepita rispetto alla realtà e sovrapporla, imporla alla storia. Bisogna partire dalla storia, confrontarsi con la realtà fenomenica storica. Ma questo adesso lo facciamo in un'altra conferenza. Allora, la razionalizzazione della civiltà occidentale, primo punto. Qui ha già detto tutto, moltissimo, chi mi ha preceduto. Di solito quasi tutti fanno riferimento all'etica protestante e lo spirito del capitalismo, che è effettivamente cronologicamente il primo testo di Weber che affronta il tema dei meccanismi che scatenano questo processo di razionalizzazione. Weber dice il puritano, il calvinista, l'imprenditore è solo, non ha la possibilità di appellarsi a nessuna deità, a nessun di fronte al mondo, e quindi si impegna nel lavoro con tutto se stesso, con coscienza, a differenza del cattolico che ha la grazia sacramentale, si può rivolgere alla Madonna, ai santi, può fare la comunione, può essere salvato, insomma, quindi può morire sereno, tranquillo, perché col pentimento, l'intercessione della Chiesa, la sua anima sarà accolta nel regno dei cieli. Questo non è dato al calvinista puritano, il quale non può sapere che cosa succederà, vive nell'ansia della salvezza oltremondana della sua anima dopo la morte. E allora come reagisce? Agisce scaricando sull'attività professionale, come vocazione, come beruf, appunto, questo problema. Se io mi applico coscienziosamente nella mia vocazione professionale e ho successo, questa seconda parte dell'Endiadi è fondamentale, vuol dire, posso trarre un sintomo, un indizio dal successo della mia attività professionale, che sarò non tra i reprobi ma tra gli eletti dopo morte, e quindi la sua ansia si placa. Quindi c'è questa continua ricerca da parte dell'imprenditore calvinista puritano di impegno serio nel lavoro come una vocazione, separare l'economia domestica da quella della sua azienda, reinvestire i profitti, niente lusso, ma tutto viene reinvestito per rilanciare con forza il capitale aziendale, accumulare l'accumulazione. È così che nasce il capitalismo. Questa è la spiegazione che in quel libro Weber ci dà. Quindi la mancanza di certezza spinge al comportamento razionale, ricerca di lavoro libero da impedimenti irrazionali, quindi nascita del mercato del lavoro libero, razionale. Tutti gli elementi di razionalità possibili sono ricercati con serietà religiosa quasi da questo tipo di imprenditore ascetico, che non spreca nulla nel lusso, e questa accumulazione ovviamente è benvenuta per il capitalismo, è su questo che poi si sviluppa il capitalismo. Più tardi allarga la spiegazione Weber nelle sue grandi ricerche sulle religioni monoteiste. E qui mostra il ruolo dei profeti giudaici. Prima ho citato Mosè che portava il popolo in una terra conosciuta, in un deserto dove non ci sono punti di riferimento, ma lui sa dove portare il popolo come leader carismatico religioso. E quindi Weber anticipa la data di nascita del capitalismo dal momento della rivoluzione industriale primitiva ad opera degli imprenditori puritani, l'anticipa di molto, va a cercare gli elementi della razionalità, l'inizio del processo di razionalizzazione della civiltà europea ben prima dell'avvento del capitalismo, della società capitalista, e risale appunto a quando i profeti giudaici sconfiggono le religioni panteiste, animiste, e fanno nascere le prime grandi religioni monoteiste. Il passaggio dal politeismo al monoteismo è il primo momento di nascita del processo storico di razionalizzazione. Perché? Perché il mondo intorno a noi, il mondo naturale ma anche il mondo sociale, viene liberato dalla presenza di deità capricciose, no? Diventa razionale e oggetto di conoscenza razionale. E quindi la mitologia greca e poi quella romana illanguidiscono e decadono, e si afferma appunto la forza delle grandi religioni monoteiste. Le attività economiche e principalmente il capitalismo trarranno grande vantaggio per il loro sviluppo da questa liberazione o demagizzazione del mondo, liberazione del mondo dalla presenza animistica e feticistica delle vecchie religioni panteiste. Detto questo, però, poi Weber va avanti, non è contento, ci sono altre condizioni razionali, e qui le ha nominate già, lo sviluppo della scienza e della tecnica, la formazione dello Stato nazionale, il diritto razionale che raccoglie l'eredità del diritto romano, che è essenzialmente razionale, il ruolo della città, delle città italiane, delle banche fiorentine, pisane, e l'emergere poi di un corpo di amministratori, di funzionari pubblici specializzati, e la liberazione dagli obblighi feudali e la nascita del mercato del lavoro. Quindi lui aggiunge via via tutti questi processi come ad un tempo cause ed espressione di questa ricerca di razionalità, di questo processo di razionalizzazione che è tipico proprio della civiltà occidentale. Non la ritroviamo altrove. Se non avviene questa rottura dalle religioni politeiste a quelle monoteiste, non si apre la strada a tutti questi ulteriori possibili fattori di razionalizzazione. La macchina amministrativa e burocratica dello Stato, però, dobbiamo ricordare, è molto importante. Sono importanti tutti questi passaggi, ma se dovessi dire assolutamente accanto alla impresa capitalistica razionale, l'uso razionale dei fattori produttivi e del mercato del lavoro, l'altro elemento decisivo è lo Stato con la sua burocrazia, con la sua amministrazione, come fatto estremo di razionalità. Sono queste le due gambe fondamentali. Poi la razionalizzazione irraggia di sé tutti gli altri aspetti che citavo, ma è importantissimo ricordare che Weber, diciamo, l'altra gamba su cui cammina questo processo storico è quello della razionalità burocratica e amministrativa. Si arriva così ai giorni nostri, quando la radice religiosa dell'uomo si è disseccata e lo stesso concetto di professione come vocazione si è disseccato, come ricordava anche Marramau, è la frase sulla gabbia d'acciaio, no? Va benissimo il disincanto, la demagizzazione, il progresso del mondo occidentale attraverso la ricerca della razionalità, ma dove ci porta? Ci ritroviamo oggi in una gabbia d'acciaio con gli uomini che sono privi di valori, privi di autentiche passioni, sono diventati, dice Verbe, aperte virgolette, specialisti senza intelligenza, gaudenti senza cuore. E qui qui nasce, secondo me, un attimo di ripensamento in Weber stesso. Non a caso ritroveremo il carisma o il carisma alla fine di questa mia piccola chiacchierata, perché si rende conto che causa alla fine di questo processo di razionalizzazione abbiamo un impoverimento forte della vita soggettiva. Nel libro di Laura, che vedo qui davanti a me, del 2015, lei cita Weber, credo, quando parla dell'impoverimento della soggettività, della vita emotiva dell'individuo, tu dici, l'impoverimento della vita emotiva dell'individuo e come patologia grave della soggettività. E qui mi fermo per un attimo. Andiamo a vedere il secondo termine del nostro confronto, il capitalismo contemporaneo. Non dimentichiamo che poi dobbiamo commisurare, diciamo, la capacità previsiva di Weber rispetto al termine ad quem, il capitalismo oggi. Vabbè, tutti diciamo che il capitalismo contemporaneo è un capitalismo globale. Datiamolo negli anni 80, datiamolo dai governi Reagan e Thatcher, e dallo spinto neoliberismo di allora, ma da quel momento il mondo rotola sempre più verso un capitalismo che diventa un fenomeno mondiale o globale in un'ottica di spinto neoliberismo. Questo in prima istanza la definizione di questo. In realtà noi dobbiamo andare un po' più avanti se vogliamo dare a Weber una chance di prevedere qualche cosa. Dobbiamo renderci conto che il capitalismo è sì globale, ma esistono quelli che sono stati chiamati dei blocchi regionali del capitalismo globale, Bowles ed altri, insomma hanno individuato. Poi è anche di buon senso capire che l'area del dollaro, l'area dell'euro, l'area dello yen sono blocchi regionali del capitalismo globale. Certo, le grandi multinazionali passano dall'uno all'altro, però in principio se noi vediamo la percentuale di scambi tra i paesi dell'Unione Europea, tra loro, sul totale degli scambi con l'estero è del 60-70%, quindi una parte minoritaria dell'euro è collegata con gli altri blocchi del capitalismo globale. E io credo che se vogliamo andare incontro a Weber, noi ci dobbiamo fermare un attimino a guardare il blocco regionale europeo, e in particolare europeo continentale, l'Unione Europea, le caratteristiche del capitalismo europeo continentale, scandinavo-tedesco direi io, lo chiamerei così. Gli studi di political economy hanno mostrato che esistono delle varianti del capitalismo europeo, si sono molto adoperati illustri amici e colleghi a individuare modelli, però appunto esiste un modello ben preciso di stato di capitalismo europeo corporativista, ho detto anche renano, non a caso. Prendete il libro di Marino Regini, Modelli di capitalismo, e ne avete tanti di modelli, che è forse quello al quale dobbiamo guardare. Non a caso lì c'è la Germania centrale. Quindi siamo arrivati a definire il secondo termine. Da che cosa è caratterizzato il modello di capitalismo corporativista scandinavo tedesco o renano, o tedesco, insomma, c'ha anzitutto forti organizzazioni degli interessi dei datori di lavoro, dei lavoratori e anche di altri gruppi sociali che acquistano rappresentanza, hanno potere di negoziazione, questo lo sappiamo tutti, insomma, è per questo che si chiama corporatista, insomma. E hanno un welfare state anche sviluppato e articolato. Questo tipo di situazione non è comune al Giappone o alla Cina o agli Stati Uniti o al Messico, sono altre aree. Allora, Weber ha previsto lo sviluppo del capitalismo contemporaneo con particolare riferimento al capitalismo corporatista europeo? Trigilia dice di sì nella sua introduzione, con molti caveat, però nella parte conclusiva della sua introduzione a Storia Economica, il libro fatto sulla base delle schede lasciate da Weber del suo ultimo anno di insegnamento e dei quaderni dei suoi studenti, Carlo Trigilia messa le mani avanti dicendo che queste fonti spiegano il carattere frammentario della visione di Weber, però dice, Weber parla anzitutto di due tipi di capitalismo. Uno è il capitalismo politico occidentale, dell'Europa occidentale, insomma, dove si passa da un'economia di mercato a un'economia politicamente regolata, dice Weber, tramite un esteso intervento dello Stato. E infatti Weber parla delle grandi banche, delle assicurazioni private, parla di funzionari pubblici, di aziende partecipate dallo Stato, diremmo noi, cioè funzionari pubblici che vengono messi a curare grandi imprese, e parla di un legame tra affaristi e funzionari pubblici nelle aziende partecipate. Insomma, sembra di sentire cose che noi poi leggiamo sui giornali quando parliamo anche dell'Italia, eh? Questo ampio strato di funzionari destinati a regolare e a coordinare, lui dice, comporta o no un declino dell'imprenditoria privata e la crescita degli affaristi legati alla politica? Quindi c'è una capacità di prevedere una, diciamo, una situazione di distorsiva all'interno di questo capitalismo politico occidentale. E cosa succede in Russia? Lui ha visto chiaramente i primi sviluppi della rivoluzione sovietica e parla di capitalismo del socialismo di Stato, l'espressione weberiana. L'avvento di un possibile capitalismo del socialismo di Stato in cui il dominio burocratico diventa ancora più forte che in Occidente. La burocrazia pubblica e quella privata, invece di tenersi un po' reciprocamente sotto controllo come avviene nel capitalismo politico occidentale, tendono a fondersi in una sola struttura gerarchica, con il pericolo non solo di comprimere la libertà individuale, ma anche di una stagnazione dell'economia. È un po' ciazzecca, perché poi la Russia ha affrontato problemi di stagnazione economica non casuali. Dunque sembra possibile dire che in Weber c'è la consapevolezza di un cambiamento del capitalismo in direzione di forme più organizzate, diciamo così. Egli vedeva con preoccupazione lo sviluppo di questo capitalismo politico-burocratico e si augurava, auspicava forme più democratiche, diciamo così, fondato sull'equilibrio, sul bilanciamento. Cioè questa idea del bilanciamento tra organi, amministrazione pubblica, organizzazione degli interessi imprenditoriali e sindacali, dice Carlo Trigilia, io mi appoggio su di lui, è presente qua e là in questo libro un po' frammentario. Sicuramente Weber non vede una deriva del capitalismo in direzione di una matrice di tipo anglosassone neoliberista, vede piuttosto quello che è anche più consono alla storia tedesca che ha sotto gli occhi, verso un capitalismo organizzato di tipo corporatista, dove c'è la soluzione, ma il meno peggio, insomma, è un capitalismo in cui si bilanciano i grandi interessi organizzati a cui viene accordato un minimo di rappresentanza. Lui ha visto già durante il periodo bellico in Germania come la contrattazione è slittata dentro i ministeri, dice, dentro i ministeri. La contrattazione tra i sindacati operai e gli imprenditori della grande industria, soprattutto parliamo dell'acciaio, del carbone in Germania in quel momento, negli anni di preparazione allo sforzo bellico e dell'inizio della guerra, nascono queste prime forme di contrattazione a livello sindacale che pian piano slittano dentro i ministeri. Quindi è proprio una soluzione, diciamo, di tipo corporativo. Vengono acquisiti gli esponenti di queste rappresentanze, si siedono al tavolino col ministro e tengono buoni gli operai, perché lo sforzo bellico richiede che tutti facciano il proprio dovere. Non sono ammessi scioperi e rotture. A questo punto io ho detto, ma andiamo un po' a vedere un po' meglio questa storia. Cioè, il mio amico Charles Mayer, che ha scritto un bellissimo libro che è intitolato L'Europa borghese, La rifondazione dell'Europa borghese, grazie. E lì lui parla dei vari stati, anche l'Italia, dove non ci azzecca tantissimo, ma la Germania la conosce bene, l'ha studiata a fondo, e ci racconta appunto come i Junkers siano passati rapidamente dal latifondio in agricoltura a occupare posti cruciali dentro non solo gli alti gradi dell'esercito, le grandi scuole, ma anche dentro l'industria, insomma, diventano capitani di industria, in particolare appunto l'industria della Ruhr, carbone, acciaio, industria pesante, e formano le loro organizzazioni imprenditoriali con le quali bisogna fare i conti, anche lo Stato tedesco deve fare i conti. Quanto al movimento operaio, è stato a lungo escluso e non riconosciuto, però, e lì rivendico un po' di averle studiate queste cose, quando Bismarck vuole mettere in piedi un sistema assicurativo sociale, con le assicurazioni sociali, voleva mettere in piedi un sistema pubblico nelle mani dello Stato, ma viene sconfitto dai socialdemocratici, che avevano già una rete di organismi mutualistici operai ancorati sulle diverse professioni, che avevano una tradizione addirittura medievale, dalle gilde, dalle corporazioni, guarda caso, il termine è proprio questo, dalle corporazioni antiche, avevano messo in piedi una subcultura, come dice Günther Ross in quel bel libro sulla subcultura socialdemocratica in Germania, molto forte, e neppure Bismarck riesce a vincere la battaglia e concede che la gestione resta in mano ai socialdemocratici e ai sindacati, cosa che non succederà in Inghilterra, che vengono fatti fuori, quando viene messo in piedi da Lloyd George il sistema assicurativo inglese, quel po' di organizzazioni mutualistiche perdono completamente la possibilità di autogovernarsi, come fanno invece in Germania. Quindi, e poi nascono poco a poco gli organismi proprio sindacali, stretti, di negoziazione sindacale. E lì c'è la guerra di mezzo, bisogna fare i conti, se questi qui piantano delle grane, c'è stato un anno di disordini, non so se è 17 o 16 in Germania, a quel punto si accetta di creare queste camere degli operai e dei sindacati per la mediazione dei conflitti, che diventano, diciamo, poi un fatto ufficiale perché saranno inserite nella Costituzione, ma che permettono di creare un'organizzazione, diciamo, piramidale, che dal livello locale sale a livello centrale, che riconosce ai rappresentanti dei lavoratori, dei sindacati e agli imprenditori di gestire tra loro le modalità dell'impegno del lavoro, le retribuzioni, eccetera, eccetera. E certo questo si sposta piano piano all'interno dei ministeri. La conclusione, la frase di Mayer, in cui vi leggo la frase con cui Charlie Mayer conclude: il capitalismo tedesco dell'epoca, troppo tardivo per dare vita ad una rivoluzione borghese, ma non così debole da permetterne una socialista, svolse allora il compito di dar vita a una soluzione corporatista. Weber la vede sotto gli occhi questa, la vede sotto gli occhi, anche perché, a parte che nei suoi scritti politici affronta alcuni di questi temi, ma proprio perché quando si tratta di decidere o no di metterla in Costituzione, lui dà parere positivo. Dunque abbiamo qui un argomento forte a sostegno dell'ipotesi che abbiamo avanzato poco fa, che in quelle lezioni che lui ha fatto, che sono state poi raccolte nel libro di storia economica in maniera sia pur frammentaria, quando parla di un capitalismo politico a tinte corporative, non fosse soltanto, diciamo, la sua grande lucidità di intellettuale a portarlo in quella direzione, ma fosse anche la sua esperienza, ciò che lui vedeva davanti ai suoi occhi e cui ha partecipato anche come uomo politico. Weber partecipò alla fondazione di un partito che si chiama Partito Liberale Nazionale e si presentò alle elezioni, notate bene, si presentò alle elezioni e fu, no, momento, prima di presentarsi alle elezioni ottenne di essere inserito al secondo posto nella lista dei candidati nel collegio di Heidelberg dove lui viveva, ma la cosa andò per le lunghe, cominciarono dei mercanteggiamenti e pian pianino, questo ce lo racconta Marianne nella biografia, non è un granché la biografia della moglie, però c'ha dei punti interessanti, perché ti racconta quanto si arrabbiò Weber. Man mano la sua posizione slittava sempre più, ma se era secondo Heidelberg, poi gli dico ma noi ti mettiamo a Monaco, va bene, e a Monaco diventa ottavo, nono, lui capisce che praticamente non sarà eletto e si infuria moltissimo. Weber si infuria moltissimo e credo che i giudizi negativi che lui dà sui partiti negli scritti politici abbiano una componente anche personale, quando parla di queste terribili cricche, lui le chiama le cricche di partito, che tutto decidono, il partito macchina, non parla più di partito semplice, parla di partito trattino macchina. Era troppo indipendente. Ah no, perché era stato malato. Beh, imprevedibile. Fatto sta che insomma lui alla fine ritira la sua candidatura e si infuria moltissimo con questi e li chiama, i membri del partito sono, diventano dei funzionari e basta, cioè il loro cervello è interamente occupato dalla dinamica interna, non stanno a guardare ciò che succede fuori. È interessante questo fatto e quindi non viene eletto, ma lui si ritira e è lì che dà spazio crescente alla figura del leader carismatico, secondo me. Io non sono sicuro di questo, devo andare a vedere meglio tempi e modi in cui il carisma o carisma entra nella teoria di Weber. Sì, sicuramente entra molto presto con certe caratteristiche, ma a un certo momento diventa un elemento importante. E Mommsen, che ha fatto un bel articolo su questo, che Giacomo conosce sicuramente, valorizza la figura del leader carismatico come uomo politico di alta levatura, che ha il senso di una missione da compiere, che ha dei valori, che ha ancora una passione politica che va al di là degli steccati imposti dalla macchina di partito, cioè, fa proprio un discorso, ma non è un discorso cieco che possa dar ragione a Ferrarotti e aprire la strada a una involuzione nazista che purtroppo avverrà, perché tra le proposte di Weber alla riforma della Costituzione ci sono delle norme che lui propone, che sono per esempio il capo, il presidente eletto in maniera plebiscitaria, no? Lui pensa a una soluzione alla francese, cioè un Parlamento eccetera, ma un Presidente della Repubblica eletto dal popolo, Macron, diciamo, un Macron, un presidenzialismo, però gli pone anche dei paletti, quindi non è che cade in ginocchio davanti al carisma del personaggio, gli dice per esempio lui non deve avere il potere di sciogliere il Parlamento, non deve avere il potere di dichiarare lo stato di emergenza, cioè è interessante seguire, quindi resta un uomo ponderato nei suoi giudizi, ma che capisce anche che, visto diciamo un po' l'asservimento, l'impoverimento intellettuale dei funzionari di partito, delle cricche di partito che lo hanno cacciato via dall'elenco degli elettoranti, è necessario affidarsi a uomini di grande personalità e soprattutto appunto uomini che abbiano dei valori, ecco, i valori rientrano qui, insomma, dei valori che hanno una base non necessariamente politica o strettamente partitica. Quindi bisogna cercare personalità. Questo è un po' un pallino, perché anche altra cosa che lui fa è a favore dei collegi uninominali, mentre è contrario al proporzionale. Nel referendum avrebbe votato sì. Avrebbe votato sì. Guardo Laura negli occhi. E noi ci... No, voglio dire, avrebbe votato no, scusa. Ah, tu hai votato no. Io ho votato sì. Allora, ecco, con te, noi ci guardiamo negli occhi e diciamo, noi e Weber, capiamo le cose. Quindi, insomma, mi sono un po' divertito e finisco in maniera non molto seria per quanto mi riguarda, cioè con queste battute, ma dopo la poderosa introduzione di Giacomo mi ero un po' spaventato. Però vi ho dato delle cosette cui pensare, ve le ho date. Vi ho dato delle cosette cui pensare, basta, chiudiamo qui. Direi che riprendiamo, anche se non, forse qualcuno manca o se n'è andato, non lo so. La seconda parte, come di consueto, si svolge con interventi, domande, relatori dal pubblico. Quindi se ci sono domande, pregherei di farle. Continua a registrare o no? Sì, sì. La compensazione. E dunque sì, io mi ero posta ascoltando appunto le relazioni. E come viene posto il problema del potere? Perché mi sembra che sia una questione fondamentale, basilare, insomma, ponendosi proprio come fase storica il superamento dei conflitti di potere come grande compito storico e quindi ovviamente il riconoscimento di una sovranità comunitaria inevitabilmente ed una sinergia comune della società per grandi traguardi, per un grande umanesimo. E da questo naturalmente si può parlare di amministrazione delle cose, e la relazionalità si trasforma in gestione comune delle cose e l'economia diventa una grande creazione umana dove appunto la società diviene ancora una volta soggetto politico, economico e culturale. Si può, ecco, come sviluppo del pensiero di razionalizzazione, si può pensare ad un'economia per i bisogni e quindi la democrazia economica come questo grande passaggio di razionalità. Grazie. Io ho preso qualche appunto, che però vado veloce, perché in realtà mi volevo fermare un attimo su una parola che mi ha incantato fin dall'inizio, che è proprio la parola disincantamento, la parola Entzauberung. E la prima cosa che mi ha molto colpito è come fosse nel testi di Weber fosse alternativa o comunque usata la parola disincantamento in termini di secolarizzazione. E quindi il sono rimasto, io faccio le domande, per cui, e quindi al Weber del disincantamento e della secolarizzazione, dell'affermarsi del mondo, per cui, sono le parole di Weber, non occorre più ricorrere alla magia per dominare o per ringraziarsi gli spiriti, come fa il selvaggio per il quale esistono simili potenze. A ciò sopperiscono la ragione e i mezzi tecnici. Queste sono le parole di Weber. Una cosa che invece ho scoperto e che sottopongono alle domande è un autore, credo abbastanza importante, che si chiama Walter Benjamin. Walter Benjamin, queste tesi di Weber, scrive in un frammento, in un testo che si chiama Capitalismo come religione, che è un frammento, non è proprio un vero e proprio testo, scrive una cosa altrettanto che cito: nel capitalismo si deve vedere una religione. A proposito di cerco di essere veloce, e questa struttura religiosa del capitalismo non lo riguarda solo, parole di Benjamin, come pensa Weber, alla stregua di una conformazione condizionata religiosamente, e qui sta il nodo, ma come fenomeno essenzialmente religioso, il capitalismo come religione. Questa è. Per dare l'agio del formarsi di altre sollecitazioni che possono nascere da tutti noi. Io volevo sostanzialmente anche gli interrogativi che formulo sono legati a un recepimento molto adesivo al tipo di presentazione che voi avete fatto, che è sono discorsi così problematici, sottili, ricchi, proprio al fine di dare corpo alla visione della ricchezza, della complessità, della problematicità di questi grandi pensatori. Weber è forse così grande, il più grande sociologo del Novecento, il fondatore in qualche modo della sociologia, proprio perché è anche così ricco e complesso e quindi anche un pensatore in cui si possono cogliere delle rotture dentro se stesso, dell'arrivare fino ad un certo punto, tornare indietro, riprendere a un certo punto un cammino che era stato interrotto in precedenza e portarlo. Quindi è questa straordinaria complessità che funziona moltissimo anche in relazione a una illuminazione sull'oggi, come ci ha proposto Massimo Paci. Io che di professione, diciamo che come sistemazione professionale faccio l'economista, ho patito molto l'uso, diciamo, usiamo bene la parola, l'uso che l'economia ha fatto di Weber, perché la sistemazione epistemologica positivista e neopositivista che ha dato a se stessa l'economia, dandosi lo statuto epistemologico più di scienza della natura che di scienza della società, a cavallo tra 800 e 900, questa cosa è avvenuta nel passaggio dall'economia classica, che era l'economia appunto di Marx, di prima ancora di Smith e di Ricardo, dei classici. Nel passaggio dall'economia classica all'economia neoclassica si è valsa tantissimo di un uso di Weber che ha esaltato al massimo una visione della razionalità come razionalità solo strumentale e la configurazione mezzi e fini, per cui la razionalità è data dalla ricerca della coerenza dei mezzi rispetto a fini, però non si discute né dei mezzi né dei fini, che vengono entrambi, mezzi e fini, estromessi dall'ambito del razionalmente indagabile, quindi non dall'ambito dell'interessante, dell'importante, rimangono importantissimi, ma su di essi non si può più fare tematizzazione, analisi, argomentazione, razionalità. Da questo punto di vista le responsabilità di questa sistemazione epistemologica sono immense, perché vediamo il fatto che l'interdetto weberiano fatto valore è stato usato nei termini proprio di un'eclisse dei valori dalla scena pubblica, dalla sfera pubblica, dei valori si può dire, che era poi corrispondente alla secolarizzazione liberale e alla neutralità liberale, per cui bisogna accettare il politeismo dei valori e quindi i valori vanno confinati nella sfera dell'interiorità privata. Io invece penso che in Weber ci sia molta più articolazione e voi ce ne avete dato la misura. Penso che un discorso analogo a quello che si fa per Weber, che facciamo per Weber, lo potremmo fare per Freud, che purtroppo non abbiamo potuto inserire nel programma di quest'anno perché avevamo in mente di fare 6 incontri e abbiamo scelto 6 incontri con personaggi cruciali proprio in questo percorso della sintesi del pensiero del Novecento così importante. E Freud, quindi l'abbiamo un po' escluso, ma Freud è anch'esso importantissimo, nel senso che riflette anche lui un positivismo allora imperante, ma il suo discorso è un discorso, come quello di Weber, molto centrato anche sulle patologie di questa modernità, sulle patologie della razionalizzazione capitalistica, della calcolabilità estrema. Ci saranno allievi di Weber che porteranno alle estreme conseguenze il discorso sulla calcolabilità razionalistica, come Lukács, che era un prediletto della moglie di Weber, di Marianne Weber, che lo spinse a scrivere Storia e coscienza di classe nel 23. E quindi anche questo discorso sulle patologie della modernità, senza rinnegare la modernità, senza scegliere una strada invece di, che poi è quella che invece è stata scelta e praticata da tutti i filosofi della postmodernità, Foucault il principe tra questi, no? Da Lyotard in poi, e che poi ha portato al relativismo assoluto, no? O al pensiero debole. Un punto importante di questo percorso è il fatto che mentre Weber e con lui altri, noi faremo un incontro su Bloch, che è un altro di quelli che poi entra perfino in conflitto con Benjamin, per l'appunto che è stato citato, con lo stesso Adorno, con Horkheimer, per quanto insiste sull'importanza della dimensione simbolica, addirittura proprio sulla oniricità, sul sogno, sulle fantasie, per spiegare l'avvento del nazismo, E lui insiste tanto su questo che Adorno e i suoi amici gli dicono: ma guarda che rischi perfino di giustificarlo. Lui dice: no, io voglio guardare in faccia il negativo e voglio ballare con le streghe. Dice che tutto che le streghe esistono, sono esistite nell'immaginario, per l'appunto, però sono anche esistite nella condanna che se ne è fatta e nel fatto che sono state assassinate le persone che venivano considerate streghe. Oggi c'è per esempio una corrente sociologica, non so quanto tu Massimo li ritieni importanti questi autori, ma io che lavoro a cavallo tra sociologia, filosofia, economia, vedo che in quell'incrocio sono importanti. Per esempio Boltanski e Capiello non a caso si rifanno direttamente a Weber, intitolando un loro libro del 99 che poi è stato ripubblicato nel 2008-2009, Il nuovo spirito del capitalismo. E insistono tantissimo quindi su una cosa su cui io sono assolutamente d'accordo, che è l'importanza della dimensione simbolica, del non accettare quel rapporto struttura sovrastruttura assolutamente ormai superato, che deriva dal marxismo. Ma loro danno talmente importanza a questo impulso razionalizzatore che sostengono che il neoliberismo, che è soprattutto impulso razionalizzatore secondo loro, è in grado addirittura di appropriarsi di tutte le istanze libertarie, per esempio del 68, se ne è appropriate, le ha riprodotte in una forma di iperrazionalità che è quella alla quale siamo condannati. Io ho l'impressione che questo tipo di discorso sulla razionalità, irrazionalità, c'è un altro filone che è il filone è un filone di allievi di Habermas che sostiene il contrario, sono Rai Yeghi, Hartmut Rosa, che sostengono invece che è l'Adorno della vita offesa che va recuperato, e il Lukács, allievo di Weber, che insiste sull'alienazione, la reificazione e quindi sulle forme della vita offesa che vanno recuperate, la vita offesa, la vita ferita, quindi il negativismo di minima moralia. Anche qui però, dicono questi allievi di Habermas, senza rinunciare al rapporto con la modernità e con l'illuminismo, arrivando a dire che le cose aberranti che dicono i seguaci di Foucault, però loro sostengono molto di più un ragionamento invece che è sulle forme irrazionali che tutto questo rischia di prendere come forme, per l'appunto, della vita offesa. Quindi il discorso sul simbolico, lo spirituale, lo spirito del capitalismo si fa ancora più complicato se soprattutto poi lo riferiamo alle condizioni, per esempio odierne, di un fondamentalismo spinto all'estremo, addirittura spinto al terrorismo, o sulle grandi ondeggiari, disorientamenti che il populismo ci svela tutti i giorni, che possono andare verso, che vanno dal suprematismo dall'inino al suprematismo bianco che fa Trump, ad altre cose che sono all'aperto richiamo al fascismo che fanno i paesi dell'Europa dell'Est oggi. Volevo brevemente soffermarmi su una questione che è stata rilevata da entrambe le relazioni, ed è la questione del carisma in Max Weber. Allora, al di là del fatto che mi sembra che entrambi voi posizionate con una diciamo fiduciosa attesa rispetto a questo concetto, no? A non diciamo così a diabolizzarlo a priori. Ecco, sicuramente vanno anch'io insomma, mi sembra chiaro che vanno rifiutate tutte queste forme di va bene così, sì, forse sì. Vanno rifiutate queste interpretazioni che anche storicamente impossibili, diciamo, da sostenere proprio dal punto di vista metodologico, che attribuiscono a Weber la possibilità di aver dato la stura al nazismo seguente, no? Tu giustamente, Giacomo, richiamavi il fatto che per lui il carisma è Lenin, addirittura in Political Sberuf è Gladstone, no? Quindi lì abbiamo perfettamente, diciamo, l'inserimento di una dominazione, diciamo, di un modello carismatico sul modello del rule of law, per cui, diciamo, queste due tipologie che si incontrano e convivono. Naturalmente la distinzione è puramente concettuale, poi si sa nella storia i tipi si fondono, no? Possono trovare simbiosi. Detto questo, però, bisogna anche riconoscere qual è stata l'operazione che Weber ha fatto col concetto di carisma e di cui noi ne subiamo ancora le conseguenze. Perché, giustamente, Giacomo, tu dicevi, il carisma, attenzione a non schiacciarlo sulla dimensione personale, perché c'è la questione della missione. E la missione, naturalmente, si richiama al RUF, no? Alla chiamata, no? Alla, diciamo, la vocazione. E quindi, diciamo, è un modello teologico per definizione, no? È Dio che chiama Mosè, è da lì che si parte, sostanzialmente. È vero questo, però è anche vero che non bisogna, come dire, il genio di Weber sta anche nell'operazione che lui stesso ha compiuto, nella manipolazione delle fonti. Perché quando lui parla di carisma, è anche quella una forma, diciamo, di grandezza, se vogliamo, no? Perché quando lui parla di carisma, lui si appoggia essenzialmente su un giurista luterano, non calvinista, che era Rudolf Sohm, che era uno storico del diritto canonico, uno storico del diritto romano, che giustamente quando parlava del carisma aveva identificato il carisma come l'essenza del non potere. Cioè, per lui il carisma, le comunità carismatiche si definiscono così, il cristianesimo delle origini, le comunità carismatiche, proprio perché i doni dello Spirito Santo si depositano su tutti e non c'è una gerarchia. Per cui noi vediamo che il concetto di carisma all'origine, del resto questo lo troviamo anche in Paolo, che è la fonte principale, il carisma è comunitario e non è personale. Il carisma è diffuso, non è accentrato, e soprattutto il carisma non è potere. Il carisma è condivisione in uno stato di eguaglianza dei doni della grazia. Quindi, diciamo, è uno strumento di condivisione di uno stato di essere insieme su un piano egualitario. Allora, quando, ecco la genialità, che insomma la genialità perversa, se vogliamo, di Weber, quando lui rilegge attraverso Sohm e Karl Hall, che era uno storico dell'antichità, questo concetto di carisma, lo rivolta come un calzino e dice: in realtà questo è un potere. È un potere, e che però è difficile non vedere che lui lo accentri sulla persona. Assolutamente. Assolutamente, che sia legittimo non lo si mette nessuno in discussione, diciamo. Non è per forza il dittatore il carismatico, certo. Questo è fuori discussione. Resta però il fatto che una delle caratterizzazioni attraverso cui il potere carismatico emerge nella sua distinzione, questo lo dice Weber, credo, in Economia e Società, quindi diciamo il para-Weber, diciamo, sia quello che sostanzialmente materiel, lui dice, il potere carismatico si distingue da attraverso il rapporto che ha col diritto, perché l'uomo carismatico è quello delle Schöpfungen, Fall zum Fall, delle creazioni caso per caso. L'idea del precedente non lo deve condizionare. E questo è, come dire, è una rimessa in discussione un po' dei principi dello Stato di diritto, se vogliamo. Non dico che lui si oppone allo Stato di diritto, ma c'è questa sorta di stato di tensione tra la razionalità del diritto formale, della prevedibilità e quindi della conseguenza rispetto a ciò che è già stato statuito, e la volontà di scardinare questo assetto, che peraltro, diciamo, non era un'innovazione di Weber, era un qualcosa che il Legibus Solutus, il pontefice che non doveva avere le mani legate, lo hanno inventato i canonisti nel Medioevo. Madi, ecco, era meglio di no. Ferrucci. Come? Ferrucci. Ferrucci. Faccio la scuola qui alla Basso di giornalismo. C'è un ragazzo. Sì, sì. Allora, prego. No, io mi sono trovata molto in accordo col suo intervento, nel senso che una perplessità che avevo quando ho studiato, insomma, Weber all'università era proprio rispetto a questa equazione che viene, che sembra un po' portata avanti fra la modernità e con Cavallo, professor Cavallo. Dove? A Pisa. Che dipartimento? Filosofia. La filosofia? Alla Sapienza, questo è dove? No, no, a Pisa. Ah, scusi, non avevo capito. Diciamo, questa equazione fra razionalità e modernità non è mai stata molto chiara, nel senso che non capisco questa necessità di necessariamente mostrare il fatto che la modernità debba inverarsi in una forma di razionalità burocratica, amministrativa e strumentale, perché diciamo c'è anche un'altra tradizione della modernità che deriva da Kant, che deriva anche in parte da Hobbes, anche se lo si può interpretare in maniera diversa, diciamo, che vede nello stato razionale non solo la forza dominatrice assolutistica, ma l'opera d'arte che tutti gli uomini contribuiscono a creare per realizzare il diritto universale, insomma, e realizzare come fine ultimo l'uomo in quanto nella sua universalità. E diciamo il capitalismo tradisce questo fine che la modernità si pone e realizza una razionalità che crea dei dominatori e dei dominati, per cui crea una disuguaglianza e non un'universalità della ragione in questo senso e del suo fine ultimo. Quindi diciamo l'idea che lo Stato necessariamente o una forma di potere debba identificarsi con la burocraticizzazione totale o l'assenza di fini, non la capisco. Nel senso che l'unica possibilità di fuoriuscita da questa situazione, secondo questa analisi, sarebbe l'uscita dalla forma statale stessa. E quindi o c'è il ritorno alla premodernità e quindi a una forma di potere mistico-religioso, oppure c'è il suo superamento in una situazione di anarchia autoregolata che forse magari poteva anche essere un'idea che si poteva ritrovare anche in Lenin, ma c'è uno stadio di mediazione, non c'è l'arrivo diretto fuori dallo Stato. E quindi relativamente al discorso dell'Unione Europea questo problema c'è, perché si può star fuori dall'Unione Europea e fuori da un certo tipo di logica capitalista, ma non si può star fuori da una forma di Stato nazionale, altrimenti non c'è più nessuna possibilità di organizzazione del diritto in senso universale. Va bene, grazie. Io volevo chiedere una cosa, sì, forse riallacciandomi all'intervento di Madi e di Laura, rispetto a proposito del capitalismo, perché lei giustamente, professor Paci, diceva a proposito anche dell'analisi di Trigiglia, si poneva la domanda se, anche storicizzando Weber, se Weber aveva previsto in qualche modo una forma di capitalismo come quella più attuale. Ecco, la mia domanda, il mio dubbio è che il modello cosiddetto corporatista come lei stessa infatti diceva, riferendosi a Maier, è un modello assolutamente novecentesco, novecentesco soprattutto degli anni centrali del Novecento. E peraltro mi viene da dire che è il modello della contrattazione, tra l'altro è un modello anche che vale anche per i contesti autoritari, fascisti. Anche in Italia c'è un forte protagonismo, nonostante il fascismo, dei ministeri, della contrattazione tra le parti, che sono lo stesso Mussolini, che sono il partito fascista, che sono i ministeri, che sono i grandi enti pubblici e le grandi amministrazioni cosiddette parallele. Allora mi chiedevo se questa stessa domanda si può fare più che rispetto al modello corporatista, che è il modello che forse Weber ha effettivamente, comincia a vedere davanti agli occhi, alla riorganizzazione successiva del capitalismo, cioè quella dopo anche la fase, è sempre complicato leggere le transizioni del capitalismo, però dopo anche la successiva fase, che è quella del cosiddetto embedded, per dirla con Polanyi, liberalism, cioè quindi il capitalismo dei 30 anni gloriosi, il capitalismo che arriva fino più o meno alla fine degli anni 70, adesso dipende anche dai vari paesi, dai vari contesti nazionali. Allora, rispetto alla riorganizzazione del capitalismo, in senso poi chi lo chiama neoliberista, chi lo chiama neoliberalismo, con mille sfumature diverse a seconda di dove si pone di più l'accento, se forse non si può dire questa stessa cosa, nella misura in cui cambiano molte cose a partire dagli anni Ottanta. È sempre una forma di capitalismo, però in cui per esempio lo stesso ethos presente nel modello weberiano viene meno in qualche modo, o comunque cioè, la vocazione e tutte le caratteristiche che voi avete delineato chiaramente, c'è una messa in discussione rispetto all'attuale organizzazione del modo di produzione capitalistico attuale. Ecco, allora mi chiedevo, e anche rispetto al ruolo dello Stato, perché per riallacciarmi a quello che mi ha detto Madi, lo Stato conosce una profonda trasformazione negli ultimi 40 anni, che non vuol dire che lo Stato non esiste più. Questo oramai a questa favola nessuno di noi crede più, per quanto per un certo periodo ci hanno creduto in tanti, ma si riarticola, si riaggiusta, diventa nel modello della governance, e in questo sì c'è una forma di corporatismo e contrattazione in cui lo Stato non ha più un ruolo centrale, ma diventa uno dei attori di contrattazione. Però per esempio le organizzazioni delle parti, le organizzazioni soprattutto sindacali o di quella che una volta era la classe operaia, i governati, i lavoratori, a seconda di come li si chiama, vengono duramente colpiti a partire dalla riorganizzazione negli anni, soprattutto fine 70 e inizio 80. Lo Stato da fiscale diventa debitore, succedono tutta una serie di cose che cambiano un po' la natura del capitalismo per come l'ha conosciuta Weber e l'abbiamo conosciuta anche noi nel secondo dopoguerra. Ecco, allora mi chiedevo se anche nell'ethos delle cose cambiano e come si sarebbe rapportato Weber a questo. Cosa molto, molto telegrafica, anche perché le domande sono anche interventi, quindi non... Allora, il mondo amministrato, la prima domanda, è il tema legato alla interpretazione di Weber data dalla scuola di Francoforte. Questo concetto mondo amministrato, il dominio contemporaneo è quello del mondo amministrato, poi aggiungerà la scuola di Francoforte, in una società non più liberale ma società di massa, che è ormai legata a, come suo elemento connettivo e di consenso, quella che Horkheimer e Adorno chiamano industria culturale, questa che è un'innovazione notevole, industria culturale, no? una cosa simile a quella che Gramsci aveva elaborato nei suoi quaderni, ma che è detta con un linguaggio molto diverso, cioè il consenso attraverso l'industria culturale, e poi l'Adorno dei minima morali dirà attraverso la pubblicità. Nei miei lavori giovanili avevo parlato di un Weber dimezzato della scuola di Francoforte, parlo lavori degli anni 70, quando avevo 25-26 anni, e mondo amministrato che però un Weber dimezzato, cioè visto tutto in chiave di ragione strumentale, che però aveva anche un vantaggio, questo della scuola di Francoforte di Adorno, che per la prima volta degli intellettuali europei usavano Marx in rapporto a Weber, riprendendo l'intreccio tra Marx e Weber fatto da Gheorghi Lukács, che tra l'altro è il oggetto della tesi di laurea di Laura, appunto storia e coscienza di classe. Cioè la scuola di Francoforte si costruisce attorno all'intreccio tra Marx e Weber, non c'è dubbio. È intorno a questo nuovo concetto che è legato al feticismo di Marx, che è la reificazione, il concetto di reificazione, questo non c'è dubbio. Weber comunque è, ripeto, interpretato in maniera unilaterale. Noi abbiamo cercato, sia Massimo che io, mi sembra, in maniera con strumentazioni diverse, di fare vedere che Weber è molto più ricco di questa lettura. Ed è molto più ricco della lettura di Habermas. È molto più ricco di quella lettura di quello scopiazzatore che si chiama Hartmut Rosa, che ha saccheggiato i lavori di Rainer Koselleck e l'edizione tedesca mia di Potere e secolarizzazione, inventando come sua tesi la tesi dell'accelerazione. Il suo libro è in audio, Accelerazione, è una vera scopiazzatura, cioè presenta come tesi propria una tesi che non gli appartiene, che non è sua. Cioè sulla base della tendenza all'oblio della cultura contemporanea, uno spaccia per tesi proprie tesi che il povero Rainer Koselleck scrive saggi su accelerazione e secolarizzazione, proprio tematizza il tema dell'accelerazione. E questo qua, nessuno in Germania, nessun editor, dove è finita la gloria di una casa editrice come Surkamp, nessun editor ha notato il saccheggio che lui ha fatto di materiali e tesi altrui. Poi Einaudi in Italia naturalmente lo pubblica e dice: nessuno finora aveva tematizzato il tema dell'accelerazione, ma i testi di Koselleck, accidentaccio, sono tradotti in italiano anche. Allora incominciamo un po' a mettere i paletti su certe cose. Disincantamento e secolarizzazione. Per Weber la prima forma di disincantamento del mondo è la parola profetica, perché, diceva prima Massimo, opera una demagizzazione del mondo, rompe con l'universo magico, quello che un grande filosofo che io amo molto più di Heidegger, Ernst Cassirer, chiamerà la disanimazione della natura, non vedere più nella natura delle forme animistiche in qualche modo, no? Cioè superamento della... E questa è la cosa. E capitalismo come religione. Weber ha sempre sostenuto che ogni fenomeno che è in grado di produrre istituzioni è in ultima analisi un fenomeno religioso, forme diverse naturalmente. Ogni contesto sociale, religioso, culturale ha una sua razionalità è una sua linea di confine tra razionalità e non razionalità che è diversa a seconda dei contesti medesimi. Cioè, nel senso che non è che non ci sia la razionalità nella cultura indiana, solo che il modello di razionalità è diverso rispetto a quello occidentale. Quindi lui dice, cioè, insomma, ha una visione molto, molto attenta riguardo a questo punto. Benjamin, questa suggestione diventata di moda, capitalismo come religione, è molto bella, una suggestione. Benjamin era un genio, figurati, è un genio morto anche presto, tragicamente, eccetera. Ma vuol dire tutto e niente. Ma che vuol dire? Sì, capitalismo come cioè diventa. Ha i suoi rituali il capitalismo, sì, ha i suoi rituali sicuramente, ma nella forma generale è quello che ha detto Weber, cioè nel senso che alla fine ogni fenomeno ha una radice religiosa, ogni fenomeno che abbia a che fare con la società. E Laura ha detto una cosa che condivido, come ho appena detto, è la versione riduttiva di Weber, che in qualche modo la... piuttosto mi soffermerei su questo punto, che Weber è dentro un filone molto importante e molto influente che ha come suo punto d'approdo Schumpeter. Libro Capitalismo, Socialismo, Democrazia di Schumpeter, cioè l'idea del capitalismo come processo di progressiva concentrazione. Capitalismo si deve concentrare, prima diceva Massimo, la analisi che Weber fa del capitalismo, del socialismo di Stato, in quanto è un modo di portare avanti il processo di razionalizzazione. Questo non c'è dubbio, quindi c'è questa idea. E così intende Schumpeter il processo di, appunto, di razionalizzazione. Fino alla razionalizzazione della concezione della democrazia, la democrazia come una tecnica per la selezione dell'elite. Questo dice lui, i dirigenti, quindi un po' quello che Eugenio Scalfari va scrivendo da alcuni mesi, che la democrazia in realtà è elitista, è una cosa che era stata detta con molto più rigore concettuale da Schumpeter in questi suoi lavori. E l'altro punto che ha toccato Laura è importante, un punto che è stato ripreso da Axel Honneth, e cioè che la sociologia, a partire da Durkheim e da Weber, nasce dalle patologie del moderno, dalle patologie della modernità. Tu pensa il saggio sul suicidio di Durkheim, no? Suicidio, il tema, l'anomia, il concetto di anomia, l'apatia, tutti quanti i fenomeni che vengono analizzati dalla sociologia. Cioè, nasce, se si vuole, da un ripiegamento in qualche modo malinconico della modernità, ovviamente declinato molto diversamente da Durkheim e da Weber. Paolo Napoli, è qui hai ragione che lui manipola le fonti e fa vedere, però utilizzando alcuni autori e teologi e teologi giuristi che in qualche modo avevano parlato del carisma come non potere. E Weber dice che il carisma si manifesta in primo luogo nei movimenti carismatici. I saggi di Parsons, non la struttura dell'azione sociale, ma i saggi di Parsons, quelli in qualche modo preparati e scritti in Germania, perché poi Parsons va in Germania, eccetera, sottolineano molto questo aspetto dell'analisi weberiana, che che lui pensava al carisma come una produzione dei movimenti, dove il capo alla fine non vale in quanto persona, in quanto Lenin, eccetera, ma vale in quanto figura rappresentativa di quel movimento carismatico. Lui pensa ai movimenti consigliari. Questa è la cosa. Lui ha presenti i movimenti dei consigli in Germania, è molto impressionato dai movimenti consigliari, fa in tempo a vedere il biennio 18-19. Avete sentito prima Massimo, lui lavora, lui tiene il corso fino al semestre del 1919-20, fino a prima di morire. Appunto, poi muore a giugno. Lui riesce a tenere il corso fino al semestre estivo, fino alla primavera, e quindi è uno che lavora fino alla fine, e quindi lui vede quello che sta accadendo a Weimar ed è molto impressionato. Io dico che non è quindi la prognosi, la precognizione del fascismo, eccetera. Sicuramente per lui la democrazia puramente rappresentativa non poteva reggersi. Volete sentire una cosa provocatoria? Aveva colto anzitempo che si era ormai entrati nell'epoca della fine della democrazia rappresentativa, come l'avevamo ereditata a cavallo tra 800 e 900. Non funziona più. Non perché c'è una crisi di rappresentanza, ma perché c'è una crisi di rappresentazione. Non rappresenta più l'insieme dei bisogni. Questo lo coglieva perfettamente. Probabilmente il fascismo, il nazismo e per altro verso il comunismo avevano riempito un vuoto da quel punto di vista lì. È utile che giriamo intorno. La democrazia rappresentativa, quella che viene descritta dalla mia cara amica Nadia Urbinati sulle cose di Repubblica, è una specie di educazione civica del buon democratico, ma non funziona più. Non era neanche, se per questo non era neanche un suffragio. Ma allora la centralità no, c'era l'Inghilterra, c'era il mondo anglosassone, sì, ma il problema è la centralità dell'istituto parlamentare, si legga Parlamento e Governo di Weber. Se uno legge Parlamento e Governo di Weber, ha chiarissimo il problema della necessità di una istanza che superi la difficoltà del Parlamento come tale di entrare. Non che lui non abbia in testa l'idea dei pesi e dei contrappesi, però l'idea di una crisi. La democrazia rappresentativa nasce dall'istituto della rappresentanza, che naturalmente si allarga democraticamente sempre di più. Da noi ovviamente soltanto nel secondo dopoguerra, ma è un istituto che come dire proviene dall'Ottocento, e questo è il discorso. E allora non è che Weber trascuri il ruolo del Parlamento, il problema dice non ce la facciamo. I partiti, c'era la Germania weimariana, era una democrazia, è stato un laboratorio la Germania weimariana, e lui la vede all'inizio, nella fase iniziale. E quindi la problematica democratica c'era, e come, non è che non ci fosse. Allora il problema vero è che lui dice che la democrazia puramente rappresentativa con al centro il Parlamento non è in grado di reggere le grandi sfide di una società che diventa sempre più massificata. Provocatorio dirlo, forse sì, ma io sono un democratico radicale, intendiamoci, però il problema me lo devo porre. E quindi ritorno un po' al tema dei movimenti carismatici, che sono ultima cosa, ma di Ferrucci. È vero che la modernità non è soltanto ragione strumentale, che ci sono altre dimensioni, altre espressioni della modernità, su questo non c'è dubbio, ma la modernità non è soltanto razionalità della dominazione del mondo, è anche un'altra cosa, non è che è soltanto quello, che ci sono varie modernità, però io non la vedrei nei termini di Habermas, post-kantiani di Habermas, quando dice che la modernità è un progetto incompiuto, si è realizzato il lato tecnico-strumentale della promessa illuministica della modernità, ma non si è ancora realizzato appunto il lato emancipativo. No, direi che abbiamo avuto spesse volte una frizione tra i due lati, abbiamo avuto anche un andamento ciclico altalenante tra i due lati, ma abbiamo avuto anche rivoluzioni della modernità, dalla rivoluzione americana alla rivoluzione francese, ai grandi processi rivoluzionari che sono avvenuti nell'Ottocento, i grandi processi rivoluzionari che sono avvenuti nel Novecento. Cioè, non è che la modernità non abbia dato luogo anche a fenomeni liberatori, emancipativi, e quindi insomma va molto problematizzato questo, il discorso habermasiano, e secondo me il discorso kantiano va commisurato a una realtà globale che è una realtà che determina questa pluralità dei grandi spazi, delle aree macroregionali di cui parlava prima Massimo, e della pluralità di versioni del capitalismo, diverse concezioni della razionalità, e quindi non abbiamo più un mondo, uniformato, un mondo che al tempo stesso uniformato, però anche diasporico. Una battuta sull'intervento di Chiara, ma che era rivolto essenzialmente a Massimo, che hai perfettamente ragione a citare Polanyi e la grande trasformazione di Polanyi, solo che Polanyi è un autore che riprende essenzialmente i temi di Durkheim. Lui viene da, non la linea Weber, ma viene da Durkheim mosso. È molto legato alla tematica del dono e rompe l'idea del continuum del razionalismo occidentale. Il capitalismo è un'eccezione, il capitalismo moderno è un'eccezione per o meglio il capitalismo concorrenziale del mercato autoregolato è una eccezione non soltanto nel contesto delle civiltà umane, ma è un'eccezione anche nella stessa storia dell'Occidente. Lui dice il mondo antico, lui dice Aristotele aveva ragione. Non c'è uno sviluppo del razionalismo occidentale. E il capitalismo è un'eccezione rispetto a un mondo in cui le società sono state in piedi sempre in base alla tematica del dono, dell'organizzazione welfaristica della popolazione, e mai in base al mercato, all'autoregolazione del mercato. Quindi se uno prende Bataille, la nozione di Depens di Bataille, c'è un capitolo che è dedicato a Weber, a Max Weber, che è pochissimo letto dalla letteratura, come dire, dei weberologi in qualche modo. C'è un capitolo dedicato a Weber dove lui dice, ha letto attentamente Weber, quello che per te è una fase dello sviluppo del razionalismo occidentale, per me una rottura e un'eccezione. Tutte le società vivono del superfluo e non dell'utile. superfluo è più importante dell'utile, e soltanto in questo modo riusciamo a stabilire il collante sociale. Come vedete, scenario mille miglia distante dallo scenario weberiano, ma anche da quello habermasiano, ovviamente anche da quello di Parsons e di Luhmann, in quanto non privilegia affatto l'azione, ma l'essere in comune, e quindi la prospettiva primaria è quella della comunità e dell'essere in comune. Il dono è l'unico collante, il superfluo è l'unica maniera di legittimare l'ordine. È tutto qui. Come vedete, come dicevo all'inizio, da Durkheim e Weber si dipartono linee importantissime, entrambe importantissime, ma fra loro inconciliabili. Pochissimo da dire qui, perché non vi seguo, siete molto più addentro al discorso filosofico di quanto sì. Io sono un praticone della sociologia e della società, e i miei studi filosofici li ho abbandonati da molto tempo, per cui gran parte del dibattito qui invece l'ho ascoltato con interesse e andrò a studiare, ho imparato delle cose dalle vostre domande, ma non ho risposte da darvi, almeno a tutti. Diciamo, posso rispondere a Laura quando parlava